Radio 24 Reportage. Disabilità e coronavirus. Storie di resistenza e di cura. Di Cristina Carpinelli. Se parliamo di coronavirus e disabilità, esiste una linea, spesso non tanto sottile, di isolamento e in qualche caso di abbandono. Nel grande mare di numeri tra vittime e positivi navigano migliaia di storie, ognuna con un proprio percorso. Storie di immensa fatica lasciata cadere sulle spalle delle persone con disabilità e delle loro famiglie. In un contesto di grave crisi hanno dovuto in molti casi rinunciare ad assistenza domiciliare e spesso a diradare cure mediche. Claudio Cresta, da circa 2 anni e mezzo, è malato di SLA a 60 anni. Per lui l'emergenza coronavirus ha significato isolamento totale dai primi casi accertati. Vivo questi giorni con l'ansia e l'angoscia che abbiamo un po' tutti. Naturalmente, per chi ha una patologia come la mia, quest'ansia, questa angoscia vengono accresciuti dal fatto che c'è il rischio di sentirsi abbandonati e non più ovviamente considerati a fronte di quelli che sono i ben più ampi problemi della coronavirus. Quali sono i servizi attivati che le hanno dato maggior giovamento? Ma soprattutto il fatto di essere consapevole di avere ancora comunque un punto di riferimento, anche se non ci possiamo più, non posso più andarci fisicamente, al Centro Clinico Nemo di Roma, con cui abbiamo attivato un servizio di consulenza e di visita tramite Skype, e poi il servizio del centro ascolto attivato da AISLA, per cui posso sempre eventualmente contattare qualunque dei professionisti del centro dell'AISLA per quelle che possono essere le mie, diciamo, esigenze. Quindi in questo senso internet ha avuto un ruolo fondamentale, vitale, si potrebbe dire? Direi proprio di sì, perché attraverso internet comunque ho potuto stabilire il contatto, addirittura anche visivo. Dunque, come sentiremo nel corso delle altre testimonianze, in queste storie ci sono due grandi alleati, internet e il mondo delle associazioni e del volontariato, una rete che ha permesso in Italia di creare assistenza quotidiana a tutti coloro che avrebbero avuto difficoltà altrimenti insormontabili, come ci racconta Chiara Schiroli, psicologa non vedente di Treviglio, nella Bergamasca, una delle zone più colpite dal virus. Quindi anche questo è un problema, cioè io non esco neanche a fare una passeggiata di 100 metri perché non sono certa di non avere nessuno accanto. Io sono una psicologa, psicoterapeuta, faccio parte del progetto Stessa Strada per Crescere Insieme, che è un progetto che è nato dalla collaborazione fra l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi. È un progetto che serve a creare una rete su tutto il territorio di psicologi che aiutino le coppie genitoriali, i fratelli, i gruppi, comunque fondamentalmente le famiglie, i genitori che hanno avuto dei figli con disabilità visiva, ad accettare la diagnosi e a far sì che il loro figlio possa vivere una vita normale nonostante la disabilità, quindi una vita normale, autonoma. Oggi, con la questione coronavirus, ci siamo resi disponibili a ricevere telefonate gratuite di non vedenti che ne abbiano bisogno, quindi per confortarli, aiutarli, dare loro consigli rispetto all'affrontare a livello psicologico questa emergenza. E siamo tanti psicologi su tutto il territorio nazionale, divisi per fasce orarie. I problemi che i non vedenti hanno in questa fase, i noi disabili visivi in generale hanno in questa fase di coronavirus, riguardano tutte quelle attività che dobbiamo fare con l'aiuto di qualcuno, quindi o accompagnati da qualcuno o per far venire, diciamo, in casa qualcuno a fare le cose per noi, perché chiaramente il contatto, meno contatti si hanno fra persone meglio è. A livello personale parlo, io sto evitando di far venire parenti a casa mia. Problemi pratici quali, per esempio, non so, firmare un documento che includono comunque obbliga le persone a stare molto vicine, perché una persona mi deve comunque far sentire fisicamente dove devo mettere il dito per firmare. Questa e tante altre cose comunque di questo tipo, cose che prevedono appunto l'assistenza fisica da parte, anche solo magari uscire a fare due passi a 200 metri di distanza. Io autonoma lo posso fare, però è anche vero che non so quanta distanza c'è fra me e un altro passante. Problemi che possono apparire marginali, ma che vanno affrontati invece con tempestività, riguardano più di 3 milioni di persone e le loro famiglie. Problemi che in alcuni casi segnano davvero la linea tra la vita e la morte, come ci spiega il presidente di AISLA, l'associazione che rappresenta i malati di SLA, Massimo Mauro. La SLA o le malattie neurodegenerative sono malattie che in questo momento rendono molto fragili. Io dico sempre familiari e ammalati, perché purtroppo SLA, SMA sono malattie che sconquassano la famiglia, quindi creano un problema non solo all'ammalato, ma psicologico a tutti i familiari dell'ammalato. Quindi stiamo cercando di intervenire nelle urgenze, cerchiamo di garantire la visita di un pneumologo a casa per le urgenze, perché un cambio cannula o la fisioterapia, insomma, sono cose difficili. Abbiamo notizie di familiari che non hanno fatto entrare dei sanitari perché non avevano la mascherina. Rifiutare le cure per mancanza di protezione è un tema che molte persone disabili dunque riportano. Succede che si scelga un isolamento totale a carico della famiglia. Lorenzo Radice, dall'inizio dell'epidemia, è in isolamento con la madre malata di Alzheimer. La nostra vita ovviamente è cambiata moltissimo, siamo chiusi in casa, io prima uscivo spessissimo di casa anche per le attività giornaliere che dovevo compiere del mio lavoro ed altro, e in questo momento invece sono assolutamente relegato in casa perché ho paura di diventare untore di mia mamma. Mia mamma ovviamente è una persona fragile dal punto di vista medico, e conseguentemente se io dovessi prendere il coronavirus molto probabilmente riuscirei a gestirlo, ma sicuramente se lo prendesse mia mamma ci sarebbero pochissime possibilità per lei di sopravvivere. Sono dunque queste le storie delle famiglie che si stanno facendo carico di persone anziane con disabilità, ma ci sono anche i bambini, gli studenti con disabilità. Mauro Barbuto è il presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Le difficoltà segnalate in questo periodo sono sostanzialmente su tre livelli. La prima riguarda le persone che devono andare a lavorare. La legge 104 e le misure del decreto Salva Italia permettono a molte persone di avvalersi della possibilità di assentarsi dal lavoro. Ma tante altre persone invece devono andare a lavorare e hanno problemi, primo perché non si trovano gli accompagnatori e in secondo luogo perché non è sempre facile rispettare le norme generali di distanziamento dagli altri, senza dimenticare la grande difficoltà segnalata anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che riguarda in particolare le persone non vedenti, che soprattutto leggono, percepiscono, esplorano, scrivono, conoscono la realtà attraverso il tocco, attraverso le mani. La seconda difficoltà è data dal supporto e dall'assistenza domiciliare. Noi abbiamo perduto oltre 1000 volontari del Servizio Civile Universale nel volgere di una notte, dalla sera alla mattina, dal 9 di marzo con il primo decreto del Presidente del Consiglio che limitava gli spostamenti. Praticamente il Dipartimento del Servizio Civile ha deciso di sospendere e annullare tutti i progetti e le nostre sezioni. Le nostre persone hanno perduto tutti questi volontari. La terza difficoltà riguarda la scuola, i bambini e i ragazzi che frequentano le scuole dalle materne alla università e, problema nel problema, le persone con disabilità aggiuntive, cioè che oltre alla cecità presentano disabilità di altro genere, o cognitive o di altra natura sensoriale, pensiamo alle persone sordocieche, per esempio. Per queste persone la didattica a distanza non è sempre così semplice da realizzare, spesso mancano gli strumenti, spesso mancano le tecnologie speciali assistive che permettano loro davvero di poter avere delle lezioni e una didattica. A chi vale la pena salvare la vita? Nello stato di Washington le persone disabili temono di essere tagliate fuori. Era questo il titolo del New York Times giorni fa, mentre crescevano numero di positivi e vittime del coronavirus, un timore che si starebbe trasformando in realtà se è vero, ad esempio, che nel Tennessee le persone affette da atrofia muscolare spinale verranno escluse dalla terapia intensiva, o in Alabama, dove potrebbero essere escluse le persone con grave ritardo mentale, scelte spaventose contro le quali la società civile americana si sta battendo, un tema molto distante per fortuna da quello italiano, ma sul quale vale la pena ragionare oggi, quando la ferita fa ancora male. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.